campane, suona le campane, din don dan, din don dan. Sta piovendo, che si fa? Che si fa? Apriti l'ombrello, apriti l'ombrello, riparati, riparati.